Salva Danaio di Deborah Rosciani. Inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, dalla redazione di Salva Danaio. Allora, come al solito, apriamo la settimana con la collaborazione del Sole 24 Ore del lunedì, che oggi nella rubrica Affari Privati, pagina 34, si occupa di codice della strada, di cui è sempre bene conoscere le novità. Oggi parliamo dei punti stradali dove vengono dislocati gli autovelox, cioè i misuratori dell'eccesso di velocità. Probabilmente non c'è bisogno che vi dia la definizione. Come è abbastanza noto, questi apparecchi devono essere sempre presegnalati e ben visibili. Ci sono anche però i rilevatori completamente automatici, quelli cioè che non hanno il presidio umano, la pattuglia degli agenti stradali accanto. Le rilevazioni completamente automatiche non sempre sono ammesse. Come spiega il Sole 24 Ore questa mattina, la riforma del codice della strada dell'estate scorsa, con tutte le novità che ha comportato ed introdotto, ha anche ampliato la rosa delle infrazioni accertabili in automatico e i punti di controllo senza agenti, in gergo si chiamano punti di controllo da remoto, li ha ribaditi anche la Cassazione con una sentenza di 2 settimane fa. Con quali implicazioni pratiche appunto in questa sentenza? Come incide sulle multe prese per eccesso di velocità e un eccesso di velocità rilevato appunto dai rilevatori automatici? Come e per quali tipi di infrazioni è consentita la modalità da remoto automatica? Su quali tratti è possibile che siano dislocati questi punti? Come si fa a saperlo? Non perché questo debba autorizzarci a guidare in maniera spericolata altrove, in maniera più attenta su queste tratte autostradali, ma perché la dislocazione dei dispositivi è chiaramente disciplinata ed è corretto che gli automobilisti lo sappiano. Insomma, tanti interrogativi che ci poniamo questa mattina e che cercheremo di chiarirvi con intanto il collega del Sole 24 Ore che ha interamente curato questa pagina di Affari Privati, il collega Maurizio Caprino. Maurizio, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Bentrovati a voi, buongiorno. Ho detto tutto correttamente all'inizio, perché in certi passaggi avevo anche qualche dubbio di aver capito bene l'argomento. Sì, grosso modo sì, poi possiamo discutere fino a domani mattina, perché i dettagli sono infiniti. Sono sicura che gli ascoltatori ci daranno materiale stamattina in abbondanza. E poi ovviamente abbiamo anche, come dire, la professionalità tecnica a confortarci, a supportarci. Silvio Scotti, dirigente superiore della Polizia Locale di Milano. Dottor Scotti, buongiorno e bentornato anche a lei, Salva Danaio. Buona giornata. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, io già nel corso del giornale radio ho lanciato l'argomento e figuriamoci se già il nostro centralino non saltava. 800 24 00 24, il numero verde appunto per i vostri interventi. Ci sono già degli ascoltatori pronti a raccontarci la propria esperienza, a chiederci dei chiarimenti rispetto all'argomento di questa mattina. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa è sempre bene monitorare in questi giorni anche l'andamento dei mercati finanziari, mercati che sono ancora un po' preda dell'attenzione, ostaggio della situazione che si sta manifestando in Nord Africa da qualche settimana. Chiaramente la Libia settimana scorsa ha accentuato i timori fra gli investitori, perché come abbiamo più volte spiegato moltissime società hanno molti interessi con il regime del colonnello Gheddafi e di questa situazione di tensione, come ricorderete, ne ha risentito soprattutto Piazza Affari. Le borse sono in questo momento appena positive. Parigi e Francoforte hanno recuperato i cali della prima parte della seduta. Londra è ancora in calo dello 0,5%, Milano meno 0,27%. Ma vorrei raccontarvi quello che è accaduto stamattina in Australia, perché non è che la maledizione delle piattaforme è terminata. Dopo lo stop per quasi tutta la giornata di martedì di Piazza Affari, l'interruzione di un'ora di giovedì di Parigi e il blocco di una gran parte della giornata della Borsa di Londra venerdì, e vi pareva che oggi non si cominciava con lo stesso argomento, stamattina sono stati interrotti gli scambi all'Australian Stock Exchange nel corso della sessione del pomeriggio della Borsa australiana a causa di un problema tecnico, l'equivalente di circa 1,5 miliardi di dollari australiani di operazioni non hanno potuto essere eseguite. Devo dirvi che non ho idea se le contrattazioni siano riprese o meno, ma insomma ci è sembrato curioso quantomeno raccontarvi ancora cosa sta accadendo alle piattaforme, dove evidentemente i volumi sono talmente intensi in questo periodo che stanno saltando un po' tutte. Si aprono le scommesse per la piattaforma che subirà un guasto tecnico domani. Non so, stamattina ci stavamo anche un po' divertendo in redazione, abbiamo la sensazione che domani potrà accadere a Tokyo, a qualche piazza asiatica. Vedremo, speriamo di no, naturalmente, perché questo implica sempre qualche problema anche di natura economico per tutti gli operatori, ovviamente i professionisti del mercato. Vedremo cosa succederà. A2A, miglior titolo di Piazza Affari, più 1,93%, Saipem più 1,85%, Parmalat più 1,73%. I peggiori sono di nuovo i titoli del settore bancario, perché nel fine settimana c'è stato il Forex, l'evento annuale degli operatori finanziari, alla presenza del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha di nuovo invitato le banche a rafforzare i propri parametri patrimoniali. E questo implica stamattina vendite su Monte dei Paschi, meno 1,83% sul Banco Popolare, meno 1,8%. Tra l'altro, i vertici del Banco Popolare proprio a Verona hanno fatto sapere che restituiranno i Tremonti Bond chiesti nel 2009 per rafforzare i coefficienti patrimoniali. Adesso il gruppo è in grado di restituire questo denaro al Ministro dell'Economia. A marzo lo farà probabilmente, ma questo non implica appunto acquisti a Piazza Affari, ma vendite ancora. Unicredit meno 1,39%, il ribasso di un punto per Fiat, Ansaldo meno 0,9%, Intesa meno 0,8%. Euro su dollaro 1,3840. Questa settimana si riunisce la Banca Centrale Europea. Probabilmente non interviene sui tassi ancora, ma Trichet, prima di lasciare la sua poltrona, probabilmente spiegherà se ha intenzione di intervenire sui tassi di interesse a breve. Allora, per frenare l'inflazione, l'impetrolio d'altronde è molto alto a causa della Libia, siamo intorno ai $100 al barile a New York e 113 a Londra. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, si parla di multe prese con l'autovelox. La riforma del codice della strada della scorsa estate ha introdotto importanti novità per gli automobilisti, sia in ambito sicurezza, come per la guida sotto effetto di alcol o droghe o di motorini truccati, sia in ambito amministrativo, dalla notifica e pagamento delle multe alla falsa intestazione dei veicoli. Un importante capitolo ha riguardato gli autovelox, gli apparecchi da remoto che rivelano l'eccesso di velocità, ai quali sono stati imposti alcuni vincoli. Restrizioni peraltro ribadite un paio di settimane fa da una sentenza della Cassazione che ha in parte ridimensionato il potere del prefetto sulla questione, evidenziando che ci sono casi nei quali solo il giudice può intervenire per dichiarare l'illegittimità dell'uso dell'apparecchiatura e di conseguenza decretare l'annullamento della multa. Di fatto, gli automobilisti multati dall'autovelox perché sorpresi a superare i limiti di velocità hanno il diritto di sapere se la via che percorrevano aveva tutti i requisiti per essere considerata ad alto livello di scorrimento. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, che stamattina peraltro non devo neanche più di tanto sollecitare perché vedo già che stanno scoppiando i centralini e le telefonate che stanno arrivando sono di molti ascoltatori che appunto hanno preso la sanzione per eccesso di velocità rilevata dall'autovelox. Qualcuno ci chiede cosa deve fare, adesso vedremo anche se alla luce di queste novità di cui parliamo questa mattina cambia anche la modalità di fare ricorso, se non si accetta di aver subito questa sanzione. Detto questo, allora Maurizio Caprino, inizio con te perché il pezzo è quasi tutto esclusivamente a tua firma. Per gli autovelox cambia e si complica la mappa dei vincoli. A prescindere dalla novità introdotta dal codice della strada la scorsa estate, altre novità sono state apportate da una recente sentenza della Corte di Cassazione di due settimane fa, che naturalmente è intervenuta sulla base di un fatto concreto che si è verificato a Treviso. Ci racconti cos'è successo? Sostanzialmente un automobilista aveva preso la classica sanzione da una postazione automatica su un viale cittadino, è andato questo automobilista a rincorrere a ritroso tutta la vicenda, ha scoperto che questo viale cittadino non era una strada urbana di scorrimento, non era classificato dal piano urbano del traffico come un viale di scorrimento. I viali di scorrimento, per capirci, devono avere almeno due carreggiate, non devono avere veicoli parcheggiati sulla parte, cioè tutti i veicoli fondamentalmente devono essere parcheggiati fuori, non ci possono essere incroci che non siano regolati dal semaforo. Questo è in sostanza un viale di scorrimento, ma occorre anche, pare di capire, una delibera precisa del Consiglio Comunale per classificare questa strada come tale, altrimenti è una normalissima strada urbana e lì per legge non si possono piazzare postazioni automatiche. La velocità si può rilevare ovunque, ma non con postazione automatica in questo caso. Ecco, se in quella strada, che comunque appunto non è stata definita come viale di scorrimento, ci fosse stata una pattuglia, le cose all'automobilista sarebbero andate in maniera diversa? Assolutamente. assolutamente diverso, perché sarebbe stata una sanzione combinata in maniera del tutto legittima. Facciamo poi la premessa che noi qui stiamo a parlare di vincoli nell'attività di accertamento, stiamo parlando comunque di infrazioni che non vanno commesse, questi vincoli sono stati via via imposti per un braccio di ferro che c'è stato fra una certa politica più affezionata al fare cassa e una certa altra politica più affezionata a prendere il consenso dei trasgressori, quindi tutto questo dibattito a me francamente non appassiona, però qui stiamo dando soltanto informazioni per esatto, però alla perché fine le leggi sono queste e vanno rispettate e vanno rispettate. Controllori e controllati. Allora, questa sentenza della Cassazione di 2 settimane fa, adesso magari per tutti gli interessati all'argomento possiamo darne anche i parametri precisi, alla 3701 di quest'anno, attribuisce anche Maurizio un ruolo molto preciso che per la verità già c'era ma forse lo rafforza, ai prefetti che possono dare l'ok per le strade urbane ordinarie, mi sbaglio? Possono dare l'ok soltanto per quelle strade che sono già previste dalla legge, ossia se la legge, come in questo caso, prevede che sulle strade urbane ordinarie non si possano fare controlli automatici, quindi senza pattuglia, non può essere il prefetto a dare un'autorizzazione in deroga alla legge. Questo è successo in molti comuni negli anni passati, questo limite diciamo è del 2002, poi negli anni molti prefetti sono andati in deroga, magari anche per venire incontro alle legittime esigenze di comuni che avevano problemi di sicurezza su particolari tratti urbani, però la legge vieta, fa un divieto praticamente assoluto, pare adesso di capire dall'interpretazione della Cassazione, e quindi ha fondamentalmente chiuso la porta a queste deroghe prefettizie. Ecco, però comunque si mantiene ancora la prerogativa dei prefetti ad autorizzare i controlli automatici appunto di determinate tratte autostradali, magari adesso definiamo anche quali sono, e soprattutto c'è la facoltà da parte degli automobilisti, l'opportunità di conoscere in anticipo quali sono poi eventualmente questi tratti autostradali. Si può andare sul sito web delle prefetture, anche se a volte le informazioni non sono molto precise. Io devo già andare a fare la prima pausa, non riesco a far intervenire il comandante Scotti, a cui chiedo un minutino di pazienza, poi lo farò sbizzarrire anche con tutte le domande degli ascoltatori. Chiedo pazienza anche a Stefano da Torino, che è pronto, e agli altri ascoltatori che sono già sulla rampa di lancio per intervenire all'800240024. Abbiate solo un minutino di pazienza, torniamo tra pochissimo. Allora, multe prese con l'autovelox e tutte le novità che sono state introdotte dal codice, dalla riforma del codice della strada della scorsa estate, da una sentenza della Corte di Cassazione di qualche giorno fa, che intervenendo naturalmente come sempre accade su un caso concreto ha stabilito anche che i prefetti non sempre possono autorizzare l'installazione dei dispositivi automatici, cioè quelli senza pattuglia. Questa autorizzazione all'installazione avviene in relazione anche alla tipologia di strada, è una questione piuttosto complessa, però non sempre i prefetti possono lavorare ed operare e disciplinare appunto in deroga le decisioni delle amministrazioni comunali. Può avvenire solo in certe circostanze, credo, spero di aver sintetizzato bene almeno la prima parte della trasmissione. Detto questo, stamattina con noi Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che parla proprio di questo argomento sul Sole di questa mattina, e Silvio Scotti, dirigente superiore della Polizia Locale di Milano. Comandante Scotti, mi viene ancora di chiamarla così perché insomma ormai è un amico di Salvadanaio da tanto tempo, oltre che esperto di questi temi per il Sole 24 Ore, era comandante della Polizia Municipale di Monza, ora fa il dirigente alla Polizia di Milano, alla Polizia Municipale di Milano. Da quanto tempo non è di pattuglia, comandante? Direi che non ho fatto attività esterna da pochissimo, perché sono uscito anche questa mattina. Mi piace continuare a fare l'attività esterna. Ho capito, è andato a posizionarsi vicino ad un autovelox correttamente dislocato ovviamente in centro a Milano? No, si trattava di una problematica diversa, di natura diversa. Comunque c'è da dire che il posizionamento degli autovelox, soprattutto tutte le informazioni con segnaletica verticale da posizionare obbligatoriamente prima del rilevamento, danno luogo ad una serie di problematiche estremamente importanti. Prima descriveva appunto Maurizio Caprino come su ogni situazione ci possa essere un ulteriore livello di approfondimento. Ci ribadisce quali sono le distanze corrette, comandante Scotti? Posso continuare a chiamarla comandante? No, perché non è il comandante del Corpo di Polizia Locale di Milano è Tullio Mastrangelo, quindi altrimenti non sono più comandante. La metto e la faccio, come dire, un incidente diplomatico ci mancherebbe anche di causare stamattina. Dottor Scotti, ci ribadisce appunto le distanze corrette, quanti chilometri prima un automobilista deve sapere che da lì appunto a qualche chilometro arriverà il rilevatore automatico di velocità? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che sulle strade extraurbane, questo perché è stato stabilito dalla legge numero 120 del 2010 che ha modificato il codice della strada, è di almeno un chilometro. Ma la problematica più seria che abbiamo è invece quelle posizionate all'interno delle aree urbane. Qua ci aiuta un decreto del 15 agosto del 2007, il quale stabilisce che i segnali stradali devono essere posizionati in modo da essere immediatamente visibili, percepibili e in modo da poter adeguare il comportamento immediatamente. Non indica una distanza ben precisa, dà soltanto indicazioni di questo tipo. Un po' più generiche. Esatto, un po' più. Che vuol dire che per ogni situazione è possibile un livello di approfondimento ulteriore per verificare se quale sia stata la vistabilità del segnale da parte dell'utente medio e poi la sua possibilità di adeguare il comportamento, quindi alla velocità, prima del controllo stesso. Questa mancata chiarezza però, dottor Scotti, immagino che alzi anche il livello del contenzioso a livelli di, come dire, enormi. Senza dubbio, si tratta di una delle violazioni che sono peggio digerite. Vediamo anche soprattutto come il legislatore continui a tornare su questa violazione che viene sempre ritoccata, sia per quanto riguarda i termini della violazione stessa, sia per quanto riguarda le sanzioni, decurtazione dei punteggi e sospensione della patente. Ecco, tanto per tornare anche alla circostanza di cui parlavo prima, cioè le zone dove i prefetti hanno la facoltà di autorizzare l'installazione dei dispositivi automatici, nelle aree urbane i prefetti non hanno facoltà di modificarla, giusto? No, hanno la possibilità di individuare, innanzitutto nell'ambito delle strade di scorrimento, strade urbane di scorrimento, dove ci siano situazioni particolari, dove non è possibile fermare un autoveicolo in condizioni di sicurezza, ecco che lì è possibile, previa segnalazione ovviamente, mettere il rilevamento automatico. Ed è l'unica situazione in cui è possibile mettere il rilevamento automatico della velocità in area urbana, soltanto sulle strade di scorrimento che prima sono state descritte benissimo da Maurizio Caprino. Andiamo alle domande degli ascoltatori, vediamo un po' se riusciamo a stare a tema. Questa mattina è difficile perché qua chiaramente è un argomento talmente vasto che lascia al campo l'apertura di molti rivoli e molte derive, ma non importa, cerchiamo di accontentare tutti. Allora, abbiamo Pier Francesco da Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Dunque, volevo presentare un'osservazione. Allora, premetto che io sono un ingegnere, quindi diciamo un tecnico, e mi intendo un po' di sistemi di misura, di strumenti di laboratorio, verifiche, tarature e tutto quanto. Io ho questa cosa che il dispositivo Autovelox, addirittura di rilevamento automatico, diciamo, di un veicolo, è di per sé un dispositivo assolutamente preciso. Da questo punto di vista non ho nulla da obiettare. Quello però che mi lascia un po' perplesso è il fatto che a bordo veicolo il dispositivo, cioè il tachimetro, che è l'unico riferimento che io guidatore ho per sapere a che velocità sto conducendo il mio veicolo, non è uno strumento altrettanto preciso. Non solo non è uno strumento di misura, non è soggetto quindi a taratura, non è soggetto ad alcun tipo di controllo o verifica, ma addirittura è uno strumento che, stante la natura stessa, diciamo, del dispositivo, può indicarmi la velocità del veicolo soltanto rilevando il numero di giri delle ruote al minuto. E quindi la misura che mi offre è anche in funzione della pressione di gonfiaggio e dello stato di usura dei pneumatici. Pier Francesco, si fermi là perché lei, come potrà facilmente immaginare, io già navigo nel vuoto con le considerazioni che lei ha fatto, per cui le giro immediatamente i nostri interlocutori esperti e tecnici di questa mattina, Maurizio Caprino. Allora, metto in relazione il nostro ascoltatore la rilevazione dell'autovelox, che è molto precisa, ma la taratura, appunto, è la rilevazione della velocità delle auto, che invece non è così dettagliata, è corretto? L'ascoltatore non ha torto, però nella pratica il problema non si pone, perché tutti i tachimetri, ormai tutti devo dire, ormai c'è una consuetudine pluriventennale, più che ventennale, tutti i tachimetri danno la velocità in eccesso. Difatti basta confrontarla semplicemente con un navigatore, con quella misurata in modo un po' più preciso da un navigatore che è installato in auto, e si vede che il tachimetro segna una velocità superiore. Inoltre va detto che a ogni misurazione effettuata dal rilevatore di velocità sanzionatorio, quindi che sia un autovelox, un telerasero, un tutor, quello che volete voi, allora questo valore misurato va abbattuto del 5% per legge, cioè se anche quell'apparecchio è preciso allo 0,%, comunque la legge dà un lasco del 5%, quindi questo problema in qualche modo è risolto. E poi teniamo conto che se anche il tachimetro fosse assolutamente preciso, noi non potremmo stare, diciamo, la nostra attenzione non può essere catalizzata dal tachimetro metro per metro, altrimenti andiamo a sbattere lo stesso. C'è sempre un margine di velocità. Infatti. Allora andiamo a Stefano da Torino invece, che avendo preso una sanzione con l'autovelox vorrebbe capire se ha i presupposti forse per fare un ricorso. Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di avermi chiamato. Allora, volevo precisare solo una cosa, un principio, cioè che si è creato, si sta creando ormai da tempo un contrasto molto forte fra gli automobilisti e la pubblica amministrazione. È una guerra dove si cerca di recuperare più soldi possibili, Stefano, invece, guardi, di essere un qualche cosa che porta tutte e due a avere lo stesso. Stefano, abbiamo fatto questo presupposto anche ad inizio trasmissione, è inutile che facciamo questa polemica, se poi le normative ci sono le dobbiamo rispettare, è un po' come non saper più parcheggiare da nessuna parte nelle grandi città, perché dovunque tu metti la macchina rischi comunque di prendere una multa per divieto di sosta. Io abitando a Milano, lei sta a Torino, figura, conosciamo molto bene questo problema, e quindi insomma le implicazioni sono talmente vaste. Detto questo, però, le norme ci sono, intanto le dobbiamo rispettare, quello è un altro livello di polemica, però mi spiace. Ci dica comunque cosa è successo. Sì, volevo dire, io ho ricevuto una multa di questo genere a... Sì, dove è finito Stefano? Non ho capito. No, allora la stiamo perdendo. Lei ha ricevuto una multa? A Firenze, in una strada, credo sia una strada del tipo di quella a cui si riferisce la sentenza recente. Però io ho telefonato in comune a Firenze, abitando a Torino, ho delle difficoltà a sapere se esiste o meno una delibera del comune che definisce il tipo di strada. Quanto l'è suonata, Stefano, questa faccenda? Che multa le è arrivata? 170 euro e 3 punti della patente. Capisco. E io vorrei sapere, cioè, prima di muovermi da una città all'altra, fare un ricorso, più che al prefetto mi sembra a questo punto opportuno al giudice di pace, avrei bisogno di conoscere se questa strada è ad alto scorrimento o no secondo la delibera. E questo praticamente al telefono è impossibile, perché sembra che dall'altra parte ci sia tutto l'interesse a non darmi un'informazione. Aspetti, cioè, in qualche modo... ovviamente. E credo che tra l'altro questo sia proprio un punto toccato anche da Maurizio Caprino nel suo pezzo. Quando si telefona alle prefetture per chiedere lumi sulle autorizzazioni e controlli automatici, non di rado la voce dell'interlocutore cambia tono, scrive Maurizio. Però vado al dottor Scotti su questa situazione che è capitata a Stefano. Certamente. Cioè, dice, io sto a Torino, figuriamoci, già il fatto di essermi capitato a Firenze rappresenta un deterrente a immaginare qualsiasi tipo di ricorso e qualsiasi richiesta di informazione, figuriamoci avere successo, no? Certamente. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che l'informazione al cittadino è dovuta, nel caso in cui non si riceva un'informazione corretta telefonicamente è sempre il caso di scrivere con una raccomandata. Secondo, i termini sono sempre quelli di 60 giorni. Terzo, è possibile gestire comunque il ricorso anche al giudice di pace grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale tramite lettera raccomandata, segnalando altresì magari che non si è riusciti ad ottenere questa informazione dalla pubblica amministrazione, cioè se la strada fosse stata regolarmente autorizzata e si trattasse di una strada urbana di scorrimento. Ecco, quindi intanto Stefano prende un po' di tempo, sicuramente questi soldi intanto li deve pagare, mi scusi, dottor Scotti, oppure... Ovviamente no, perché cesserebbe la materia del contendere e proporre un ricorso sarebbe molto molto più complicato e quasi tutti i giudici di pace lo considerano inammissibile. Bene, quindi Stefano non si scoraggi, se ritiene di aver ragione, intanto vede che c'è già la possibilità di muoversi senza doversi necessariamente attaccare ad un telefono che continua a squillare senza ricevere nessuna risposta. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, oppure 349 238 6666, se ci volete scrivere. Lo potete fare anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. E allora, visto che siamo in tema, sentiamo un po' cosa sta accadendo sulle strade italiane. Maurizio Caprino, tra l'altro stavo rileggendo meglio il tuo articolo di questa mattina, adesso ragionando sul caso dell'ascoltatore di Torino che ci ha chiamato, che ha ricevuto una multa transitando a Firenze. A Firenze, scrivevi tu, si sta ponendo il problema dei viali cittadini con controllo automatico. È proprio quello, perché il comune sostiene di aver nel tempo effettuato degli interventi per rendere questi viali degni di essere chiamati strade urbane di scorrimento. Il problema è che manca la delibera, perché quindi questa situazione non è stata ufficializzata. Io ho in mano una sentenza, ne parlo più diffusamente anche stamattina sul mio blog, e praticamente i giudici di pace cominciano a tener conto soltanto il requisito formale, ossia manca la delibera, quindi quella strada automaticamente non è di scorrimento. Poi magari non mi stupirebbe se nei giorni prossimi arrivassero sentenze di segno contrario, quindi è un problema nel problema, e questo mi spiega perché il nostro povero ascoltatore che telefona da Torino non trova nessuno che gli dia che gli dia retta, insomma, perché non saprebbero cosa rispondere. Questo di Firenze naturalmente è un caso particolare, l'abbiamo detto, ma per quello che riguarda le altre grandi città è più facile, Maurizio, magari appunto andando a curiosare sui siti internet delle prefetture, individuare i tratti stradali dove appunto c'è l'installazione dei dispositivi automatici, e quindi insomma l'informativa è un po' più semplice? Sì, questo è semplice. Il problema però è che la prefettura dice soltanto quali sono i tratti che ha autorizzato. Non dice se questi tratti poi sono legali, quindi occorre fare un'indagine tratto per tratto. Ecco, non bisogna fermarsi al dato apparente che si trova sul sito della prefettura. Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza, mi dispiace non abbiamo più il suo comandante perché adesso è andato da un'altra parte. Maurizio, buongiorno. Sì, ufficialmente ha fatto anche il salto di provincia perché è ritornato nella provincia di Milano, quindi oltre a essere vi manca. Che salto di provincia. Ad ogni modo, io sto transitando su una delle nostre strade provinciali. Sono appena uscito da Saronno alla eccezionale velocità di 30 km all'ora. Questi hanno tappezzato per un problema di inquinamento, parlo di Saronno, parlo di Bovisio, il paese di limite velocità a 30 all'ora legato alle problematiche ambientali. Adesso mi dicono in quel di Saronno, ma guarda che se superi anche a 35, 38, 40 ti danno la multa soltanto perché hai superato un limite di velocità, ma non ti decurtano i punti. Questo è fattibile o non è fattibile? Sentiamo un po' se vabbè. Allora, dottor Scotti non presiede più, insomma. Certo. Però ha ragione Maurizio. Certo, in ogni caso cominciamo a dire che in ogni caso esiste un limite minimo di tolleranza previsto dalla legge di 5 km orari, perché il limite è previsto nel minimo del 5%, ma con un limite ulteriore di 5 km orari come minimo, quindi bisognerebbe superare i 35. Secondo, io credo che sarebbe il caso di verificare la validità di tali ordinanze, cioè sono sufficientemente motivate, perché in realtà il problema è quello di capire se l'abbassamento della velocità a 30 km orari effettivamente abbia un'efficacia oppure meno, argomento sul quale io e Maurizio Caprino ci siamo intrattenuti, sull'abbattimento dell'inquinamento. Poi è chiaro che una volta che ci sono i segnali dei 30 km orari scatta l'obbligo di rispettarli. È altrettanto vero che comunque qualunque postazione di autovelox, anche quelle mobili presiedute dalla polizia locale, deve comunque essere preannunciata con appositi cartelli. Allora, colgo volentieri l'osservazione di Carlo dalla provincia di Brescia, che adesso faccio intervenire, perché è un po' una considerazione comune che fanno molti ascoltatori. Poi vi spiego cosa penso io sull'argomento, non perché vi debba interessare, ma così anche proprio per continuare un po' ad incorniciare, speriamo correttamente, l'argomento di stamattina. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Allora, anticipo che di multe ne prendo parecchie e le ho sempre pagate. Cosa combina, Carlo? È spericolato in macchina, no? No, spericolato, ma a volte anche nello stesso posto. So benissimo che c'è il multame, il rilevatore, e ogni volta mi dimentico. Non è questo qua. Ora, poiché pare che tanti automobilisti siano degli extraterrestri, perché io non capisco, cioè, poiché in ogni caso ci sono dei cartelli che impongono il limite di velocità, i cartelli sono in tutta Italia e certamente non mancano, non vedo per quale motivo ci debbano sorprendere che poi ti beccano 100 metri dopo. Del resto, se dovessero scrivere che a 428,2 metri c'è il rilevatore, a questo punto potrebbero anche scrivere che a 428,2 metri c'è una buca nell'asfalto. È chiaro che nessuno ci finisce dentro perché già ti dicono che c'è. Quindi non avrebbe neanche più senso mettere il rilevatore, perché nessuno la prenderebbe la multa. Ora, bisogna vedere se bisogna tutelare i furbi o bisogna punire chi sbaglia. Se bisogna punire chi sbaglia, se se c'è scritto 50 all'ora, io devo andare a 50 con certo. la tolleranza. Ma infatti, Carlo, no, no, ma conta chilometri, tutte queste cose. Ma no, nel senso, tu parti già. Se mi metto ad andare come un pazzo dove c'è 50, io so già di partenza che la multa infatti. Mi può arrivare. Carlo, non era, io la ringrazio per l'osservazione perché io la sposo pienamente ed è quello che dicevamo all'inizio, non volevamo parlare del fatto che i comuni vogliono far cassa con questi provvedimenti quanto del fatto appunto che se ci sono delle norme vanno rispettate. Il tema di cui parliamo questa mattina è quando un'auto velox è comunque secondo la legge anche correttamente dislocato. Maurizio Caprino, aiutami tu, perché da quello che capisco molto spesso in molte città si ingaggia appunto la lotta tra le prerogative del comune e quella dei prefetti, non c'è molta chiarezza sulla definizione della nomenclatura delle strade e quant'altro, per cui sembrano problemi che a noi non dovrebbero interessare, invece ci sono e a volte rappresentano anche il presupposto per fare dei ricorsi che si concludono con successo a favore dell'automobilista. Sì, allora, intanto diciamo al nostro ascoltatore, al nostro ultimo ascoltatore che sollevava il problema dei cartelli, dei segnali, che la grande, poi il grande dubbio è che dietro questo segnale ci sia effettivamente poi un controllo, perché ci sono tanti posti che non sono realmente poi presidiati, cioè possono essere presidiati una volta a settimana, una volta al giorno per due ore, eccetera, eccetera, la maggior parte delle volte in cui noi passiamo non c'è nulla, insomma, oppure lo stesso rilevatore automatico è spento, quindi in realtà noi abbiamo tappezzato l'Italia di segnali, ma i controlli reali sono molti meno di quelli preannunciati. Detto questo, riepiloghiamo dove il controllo automatico, quindi la postazione automatica senza presidio di agenti, è piazzabile. Allora, su tutte le autostrade di sicuro sì, senza autorizzazione del prefetto. Su tutte le strade extraurbane principali di sicuro sì, senza alcuna autorizzazione del prefetto, quindi ovunque. Però attenzione che le strade principali, extraurbane principali, non sono tutte le superstrade, sono semplicemente quelle superstrade che hanno doppia carreggiata e soprattutto sono segnalate, sono contraddistinte da un cartello all'inizio che è uguale a quello di inizio autostrada, solo che è a fondo blu, quindi tutte le altre superstrade a doppia carreggiata sono urbane ordinarie, il limite di velocità scende a 90 all'ora e su quelle, sulle strade extraurbane ordinarie tutte, occorre invece l'autorizzazione del prefetto. Il prefetto vede quali sono i tratti più pericolosi, dove è più difficile fermare, eccetera, eccetera, li fissa con questo suo decreto che possiamo guardare sul web e noi a quello dobbiamo attenerci. Stessa cosa per quanto riguarda l'ambito urbano, però con l'avvertenza che dicevamo prima, in città le postazioni automatiche non sono mai ammesse neanche su autorizzazione del prefetto se la strada è normale, occorre che sia un viale urbano di scorrimento. Allora, molto bene, noi speriamo di aver fatto con questa, come dire, chiosa finale chiarezza una volta per tutte. Ci dobbiamo fermare adesso per la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Con le parole della previdenza, oggi l'INPS ci spiega che cos'è l'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento o assegno di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall'INPS, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100%, con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua, che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. È una forma di provvidenza economica istituita con la legge numero 18 del 1980, modificata dall'articolo 1 della legge numero 508 del 1988. Non ci sono vincoli di età o di reddito. L'indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Per averla bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Sul tema di oggi sono arrivate più di 50 telefonate. Io vi invito, ovviamente abbiamo accontentato pochissimi ascoltatori, vi invito a scriverci a salvadanaio@radio24.it oppure andate sul blog di Maurizio Caprino che torna sull'argomento, scriveteci, noi giriamo appunto le vostre osservazioni ai nostri interlocutori che saranno ben contenti appunto di commentarle insieme a voi. Grazie a Silvio Scotti, a Maurizio Caprino, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Noi di Salvadanaio torniamo domani con la nuova stagione della dichiarazione dei redditi. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.